torniamo a parlare di vivisezione. La nostra Valentina Reggioli ha seguito il 29 dicembre scorso una manifestazione che si è tenuta ad Ivrea, nel Canavese, in Piemonte, organizzata dal comitato No RBM. RBM è una società che esegue studi tossicologici per farmaci e altri prodotti chimici utilizzando la sperimentazione animale. Basta, vivisezione! È ora di agire per la liberazione! Federica Pedicini, ho creato il gruppo No RBM, No Vivisezione, un gruppo praticamente nuovissimo, creato da circa 3 mesi. RBM è un'azienda presente nel Canavese che effettua vivisezione. Quindi noi come gruppo lottiamo contro la vivisezione. In questo caso abbiamo preso di mira RBM come azienda, non per in primis richiedere la chiusura di questa azienda, perché comunque andiamo a tutelare anche i dipendenti dell'azienda, ma per chiedere ad RBM che cambi il modo di gestire. Quindi ci sono metodi alternativi, utili, riconosciuti anche a livello mondiale, dove non vengono uccisi animali, milioni di animali, come fanno tutti questi laboratori di sperimentazione. Ci sono laboratori che effettuano molte volte la sperimentazione non sempre attenendosi alla legge, ai permessi rilasciati dall'ASLA. Quindi noi per ora faremo queste manifestazioni, presidi, dopodiché ci comporteremo di conseguenza anche in risposta a quello che farà RBM. RBM in questo momento, da un incontro che noi abbiamo fatto con il sindaco di Colleretto Giacosa, è appoggiata dal comune di Colleretto Giacosa. È uscito proprio oggi su un quotidiano del Canavese un articolo rilasciato proprio dal sindaco, la signora Paola Gamba, dove dichiara apertamente che è a favore della vivisezione e quindi a favore di RBM. Il sindaco non è assolutamente uno scienziato, ha avuto questa presa di posizione avvalendosi di informazioni lette da parte di vivisezionisti, ma ci sono anche altre cose da leggere, quindi non solo i vivisezionisti. Però ha preso proprio posizione anche nell'incontro che noi avevamo fatto circa un mese fa con i suoi collaboratori, dove ci ha detto apertamente RBM non si tocca. Noi abbiamo detto, noi non è che vogliamo toccare, ripeto, RBM come azienda, come dipendenti, vogliamo toccare il problema che è la vivisezione. Quindi cercheremo come gruppo No RBM di far abolire la vivisezione anche a livello regionale. Partiremo con una petizione, avremo un incontro, richiederemo un incontro al presidente della regione. Quindi faremo anche altre azioni molto più importanti di un corteo. Il corteo è informazione. Poi ci vogliono anche le azioni legali e informative su tutto il territorio del Canavese. Questo è l'obiettivo di RBM. Siamo un gruppo apolitico, apartitico, pacifista, antispecista e tale rimarremo. Adesso avremo il prossimo presidio il 26 di gennaio davanti ad RBM. Sarà un presidio dalle 13 alle 18 per far sentire comunque sempre la nostra protesta. Devono arrivare persone da Modena, Bologna, c'è gente, persone che arrivano da Milano, siamo anche al 29 di dicembre, quindi abbiamo però scelto questa data per dare continuità alle nostre azioni, visto che il precedente l'abbiamo fatto il 24 novembre, perché cercheremo di mantenere una cadenza mensile di queste manifestazioni, per diciamo non lasciar respirare RBM. Certo. Quindi come dicevo adesso il prossimo il 26 gennaio, poi i primi di marzo ci sarà una manifestazione a Torino, poi continueremo mese per mese con manifestazioni. Ciao. Abbiamo appena assistito a un flash mob con delle ragazze vestite con delle passate, con gli orecchi da coniglietto, da renna, da gatto, da cane e così via. Azione diretta liberazione! Azione diretta liberazione!